canto, me la suono e me l'ascolto. Io me la canto, me la suono e me l'ascolto. Io me la canto, me la suono e me l'ascolto. Il mio nome è Ness, al netto e senza sconto. No, no, niente da dimostrare, io sono uno zero. Faccio tutto da solo, rime beats e ne vado fiero. È questo che ho imparato da chi ho seguito fino a qui. E grazie a chi mi circonda, se sono così. Non sono un musicista, né tantomeno un vero artista. Non faccio riempipista e questo non mi rattrista. Solo non ho voglia di fare parte del gioco. A differenza di molti, non valgo poco. Infatti prendo spunto dai migliori. Se salgo su di un palco prendo spunti dai peggiori. Quindi resto fuori, ho la rima con il pedigree. Ricordi canto come un cane, ho dato per le porce, ho dato anche la carne. Quindi prendo un pezzo e ne faccio la autopsia, per capire come le rime compongano la poesia. Successo e fama ammazzano la rima. Cos'è successa la tua dopo la firma? Io me la canto, me la suono e me l'ascolto. Il mio nome è Ness, al netto e senza sconto. Io me la canto, me la suono e me l'ascolto. E nel mio stereo che suona la fine del mondo. Io me la canto, me la suono e me l'ascolto. Io me la canto, me la suono e me l'ascolto. E visto che me la canto, me la suono e me l'ascolto, non ti dispiacerà se sul mio pezzo sputo rime sul suo mondo. Sono il peggiore sulla scena, ma già lo sapevo. Visto che la mia faccia non è sulla mia schiena, lì ci trovi solo i migliori. E visto che non c'è neanche la tua, come me, tu sei tra i peggiori. Ti senti un VIP solo se ti incontra Nuccio. Io per la vergogna mi nasconderei col cappuccio. Quindi non parlatemi di questi pop di cui non sono degno. Mi fanno cagare Fibra, Marrakesh e Kepechegno. Sempre più convinto che se mi chiamassi Emi Spilla avrei visualizzazioni come King Kong contro Godzilla. Invece sono nessuno, sto con Diamo. Non dimentico le origini e come mi chiamo. Tu riconoscimi l'amore e la passione. Io voglio essere, non apparire come voi in televisione. Quindi un attimo d'attenzione, vi presento la mia band. Dalle percussioni il cuore al microfono. Io me la canto, me la suono e me l'ascolto. Il mio nome è Ness, al netto e senza sconto. Io me la canto, me la suono e me l'ascolto. E nel mio stereo che suona la fine del mondo. Io me la canto, me la suono e me l'ascolto. Io me la canto, me la suono e me l'ascolto. E visto che me la canto, me la suono e me l'ascolto, non ti dispiacerà se sul mio pezzo sputo rime sul tuo volto.